serpenti e farfalle. Apparente, apparente, esseri umani ridotti in polvere. Apparente, apparente, un po' in anticipo, un po' in ritardo. Apparente, apparente, quell'attimo a un centro, nel centro la vita che sembra ma non è. Parzialmente falso, trasparente, trasparente, lì dove un volto ci appare vero. Trasparente, trasparente, come la neve ferma sui tetti, poi arrivano troppe parole, le nostre ferite che nessun bacio mai richiude. Niente. Pensa che alla fine di tutto potrai dire questa frase, perché la vita in fondo è un falso allarme. Considera che quasi mai la realtà congiura, più spesso gira via per conto suo. Considera ogni cosa senza inquietarla. Trascura le tue perdite, consolati con le cose belle che accadono agli altri. Dio è il bene che facciamo e niente di più.